Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una persona che ci è stata molto vicina. L'Italia perde un capolavoro, un uomo capolavoro. Questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la dichiarazione di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle alla Camera Ardente di Dario Fo, morto ieri all'età di 90 anni. Sapete che negli ultimi anni era molto vicino al Movimento 5 Stelle. E mentre arrivava, mentre se ne andava appunto Dario Fo, ieri, lo sapete, arrivava questo inaspettato Nobel per la letteratura 2016 al cantautore americano Bob Dylan. Però la notizia è che da oltre 24 ore l'Accademia di Stoccolma non riesce a trovarlo, proprio non si cerca dappertutto. Probabilmente sta continuando a fare i suoi concerti, ieri a Las Vegas e ora continua col suo tour. Pare non abbia ringraziato, non si sia fatto sentire né reperire, insomma questo è il personaggio. Però parleremo questa sera di pensioni, perché ci sono degli aggiustamenti, vanno fatti dei chiarimenti. C'è la CGIL che accusa il governo di essersi rimangiato alcune cose, ne parleremo tra poco. Poi bilancio della politica della settimana, come sempre, non solo la politica economica, la politica anche partitica, diciamo, come sempre qui il venerdì Effetto Notte. E poi questa notizia dell'Italia che dovrebbe mandare nei prossimi mesi un contingente di soldati in Lettonia ai confini con la Russia. Cerchiamo di capire cosa c'è effettivamente dietro questo e anche quali sono le previsioni per i prossimi giorni per quanto riguarda il meteo, perché per il momento diciamo che il cattivo tempo sta spazzando soprattutto il nord Italia ma anche la Toscana. Allora, voi avete sempre i vostri due canali privilegiati per intervenire sulle notizie, la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i messaggi WhatsApp che è 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte 349-238-6666. Intanto, come sempre all'inizio, vi racconto la giornata. Iniziativa della NATO in Lettonia, nei prossimi mesi anche 140 soldati italiani al confine con la Russia, le opposizioni attaccano il governo italiano, Mosca parla di politica distruttiva, Gentiloni assicura non è aggressione. Pensioni, arriva l'APE agevolata per i disoccupati, disabili e lavoratori impegnati in attività faticose, purché con reddito inferiore a 1.350 euro, con 30 anni di contributi se disoccupati o 35 se attivi. Critica la CGIL che dice il governo si rimangia la parola, 30 anni di contributi invece di 20. Referendum costituzionale, testa a testa nei sondaggi tra il no e il sì, l'attesa per l'esito dei ricorsi. Presidenziali americane, Obama avverte, è in gioco la democrazia e lancia il coro Hillary Hillary, nuove accuse di molestie per Trump. L'America e le armi, a causa di sparatorie accidentali muore un bambino ogni due giorni. Desaparecidos, chieste a Roma 30 condanne all'ergastolo a capi di Stato e giunte militari per la morte di 23 italiani tra Bolivia, Cile, Perù e Uruguay. Meteo, maltempo in mezza Italia, tromba d'aria su Genova, tempeste d'acqua al nord, a Roma un albero cade su una scuola bus causando tre feriti lievi, tra cui una bimba, a Palermo tutti in spiaggia. L'ultimo saluto a Dario Fo, milanesi di tutte le età sono accorsi alla camera ardente dell'artista nel foyer del piccolo teatro Streller, nonostante la forte pioggia, anziani, giovani, scolaresche e tanti personaggi dello spettacolo. Cercasi Bob Dylan disperatamente, a più di 24 ore dopo l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura, l'Accademia di Stoccolma non riesce ancora a trovare il cantautore americano. Partiamo quindi dall'annuncio del segretario generale della NATO, Stoltenberg, a proposito dei 140 soldati italiani che nei prossimi mesi saranno schierati in Lettonia al confine con la Russia. È stato deciso al vertice di Varsavia e noi saremo in Lettonia. Così Roberta Pinotti sull'invio di militari italiani in Lettonia dal 2018 a difesa della frontiera esterna della NATO con la Russia. La conferma del nostro ministro degli esteri, che pur ha dichiarato di volere un dialogo con la Russia, è arrivata solo dopo l'annuncio dato riguardo dal segretario generale della NATO in un'intervista alla stampa. Con Jens Stoltenberg in seguito il nostro ministro degli esteri ha tenuto una conferenza stampa congiunta. Paolo Gentiloni ha spiegato che l'Italia invierà 140 soldati in Lettonia per partecipare alla forza NATO a guida canadese dispiegata nel paese, ma che non si tratta di un'aggressione. Così poi il segretario NATO. In recent weeks, Russia has deployed missile systems. Nelle ultime settimane la Russia ha schierato sistemi missilistici vicino ai paesi alleati, ha detto Stoltenberg, aggiungendo che per questo comportamento gli alleati sono profondamente preoccupati. Immediata la reazione di Mosca, la politica della NATO è distruttiva, costruisce nuove linee di divisione in Europa invece che solide relazioni di buon vicinato, ha fatto sapere il portavoce del ministro degli esteri russo. Reazioni forti anche in Italia, la Lega parla di atto di guerra, guerra ai 5 Stelle di una mossa inaccettabile che ci espone a scenari bellici vecchi di 30 anni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ne torneremo a parlare, vi dicevo, qui effetto notte con un esperto di difesa per capire di cosa effettivamente si tratti, quali implicazioni vi siano internazionali, nazionali, eccetera. Pensioni, altro tema importante, arriva l'APE agevolata per disoccupati, disabili e lavoratori impegnati in attività faticose, purché con un reddito inferiore a 1.350 euro lordi, con 30 anni di contributi se disoccupati, 35 se attivi, ma la CGIL attacca, dice il governo, si rimangia la parola. A partire dal 1 maggio l'APE social o agevolata, ossia il pensionamento anticipato senza penalizzazioni, scatterà per disoccupati, disabili e alcune categorie di lavoratori impegnati in attività faticose come infermieri, maestre o edili, purché abbiano un reddito mensile non superiore a 1.350 euro lordi. Diversi contributi necessari per l'APE social: 30 anni per i disoccupati, 36 per gli altri lavoratori attivi. Il governo incontra i sindacati e mette sul tavolo la proposta sulle pensioni che finirà nella legge di bilancio. Una manovra che riserverà al capitolo pensioni 6 miliardi complessivi in 3 anni. Per gli altri lavoratori che sceglieranno di andare in pensione prima volontariamente, la rata da pagare per la restituzione del prestito sarà pari a circa il 4,5-4,6% per ogni anno di anticipo. La soluzione trovata dal governo per l'APE social non piace alla CGIL, che in un tweet accusa: il governo Renzi si è rimangiato la parola, 30 anni di contributi invece di 20 per l'APE social. Il governo, dice il ministro del lavoro Giuliano Poletti, sta lavorando e spiega. Dobbiamo far convivere l'esigenza di avere delle categorie che aspettano di poter andare in pensione prima, con un limite di risorse e quanti anni di contributi, come un elemento che ci aiuta a definire il numero. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco proviamo a capirci qualcosa di più. Intanto arriva una notizia da fonte di governo sulla manovra economica. Con la legge di bilancio per il 2017 saranno stabilizzati 3.000 medici precari e 4.000 infermieri. Ieri il presidente del Consiglio Renzi aveva parlato di sblocco del turnover, di riapertura dei concorsi pubblici per circa 10.000 posti. In Italia, per far crescere l'economia, bisognerebbe puntare anche a recuperare qualche ricchezza sottratta al fisco, che l'Istat stima in un forte aumento dal 2011. Nel bel paese ben 211 miliardi di euro vengono sottratti al fisco tramite false dichiarazioni, lavori affitti in nero, droga, prostituzione e contrabbando, e la cosiddetta economia non osservata stimata dall'Istat per il 2014, e il dato, pari al 13% del PIL, è in costante aumento, 5 miliardi in più dal 2013 e 10 miliardi dal 2011, primo anno di calcolo. Una parte, 17 miliardi, fa capo all'industria illegale, ma la stragrande maggioranza, oltre 194 miliardi, arriva dal sommerso. Di questi, 99 miliardi sono frutto della sottodichiarazione da parte delle aziende, ci spiega Giampaolo Oneto dell'Istituto di Statistica. Le imprese che dichiarano valore aggiunto sotto soglie che sono assolutamente minime, consideriamo che non abbiano dichiarato tutto. Oltre un terzo deriva invece dal lavoro irregolare. Nel 2014 sono oltre 3 milioni e mezzo i lavoratori in nero, 180.000 in più dal 2013. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla Confindustria italiana e quella tedesca arriva un appello ai governi dei due paesi per rilanciare l'economia europea. Un patto per la competitività, per rilanciare crescita e occupazione e costruire una nuova primavera europea. A sollecitarlo sono la Confindustria italiana e quella tedesca, che si apprestano ad inviare un documento congiunto con 12 raccomandazioni al presidente del Consiglio Renzi e alla cancelliera Merkel. Le indicazioni presentate nel bilaterale che si è svolto a Bolzano vanno dalla definizione di un quadro strategico europeo per la modernizzazione dell'industria agli investimenti nelle infrastrutture a banda larga, dalle politiche per l'innovazione al brevetto unico europeo fino alla soluzione dei problemi di finanziamento delle imprese. La sfida non è fra stati europei, ma tra Europa e il resto del mondo. Per essere competitivi serve quindi un'industria europea forte, ha sottolineato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Dopo la Brexit è necessario che i rimanenti 27 stati membri dell'Unione si stringano ulteriormente, gli ha fatto eco il numero uno della BDI, Ulrich Grillo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica con il referendum costituzionale continua il testa a testa in vista del referendum del 4 dicembre. Per XE i fronti del sì e del no sono appaiati al 37%, con una possibile affluenza del 51%. Intanto il costituzionalista Zagrebelsky ipotizza un rinvio del voto in seguito ai ricorsi contro il quesito presentati anche da un altro costituzionalista, che è Onida. E passiamo all'America, campagna per le presidenziali americane. Il presidente uscente Obama mette in guardia ancora una volta i cittadini in caso di vittoria del candidato repubblicano Donald Trump. Sarebbero a rischio, dice, tutti i progressi che abbiamo fatto negli ultimi 8 anni. La stessa democrazia è in gioco, ha detto Obama, intervenendo in un incontro a sostegno della candidata democratica Hillary Clinton a Cleveland, in Ohio, uno degli stati chiave per eccellenza. E sempre negli Stati Uniti, questa notizia terribile, un'arma da fuoco uccide accidentalmente un bambino ogni 2 giorni. È il triste dato rivelato da un'indagine svolta da Associated Press e US Today e che riguarda i primi 6 mesi del 2015. Le morti avvengono sia per mano di adulti sia per mano di bambini. Il copione che si ripete solitamente è quello di un adulto che lascia incustodita in casa un'arma da fuoco. Il bambino incuriosito la prende e accidentalmente si spara o spara a un'altra persona. Pensate, quindi un bambino ogni 2 giorni che muore negli Stati Uniti in questo modo. Desaparecidos, la Procura di Roma ha chiesto di condannare all'ergastolo 30 persone, tra cui ex capi di Stato, ex esponenti delle giunte militari dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay, in carica tra gli anni 70 e 80. Sono accusati a vario titolo della morte di 23 cittadini di origine italiana. Il processo si sta svolgendo davanti al giudice della seconda corte d'assise. E adesso il meteo, maltempo in mezza Italia, ve ne sarete accorti, tromba d'aria su Genova, tempeste d'acqua al nord, a Roma un albero è caduto su uno scuolabus causando 3 feriti. Lievi, tra cui una bambina. A Palermo tutti in spiaggia, particolarmente critica la situazione oggi in Liguria. Ci colleghiamo con il nostro Andrea Ferro. Andrea, mi pare che il peggioramento non ci sia stato, per fortuna, in serata, Andrea. No, per fortuna no, e questa è una buona notizia, l'abbiamo già data nel GR delle 19. L'allerta è stata declassata da rossa a gialla su Genova e il Ponente, arancione tra Portofino e il confine con la Toscana, resta in vigore fino alla mezzanotte, sono le 21.14, quindi dovremmo quasi esserci. Davvero è stata una giornata particolare, sembrava di essere finiti in balia di un uragano, scene così, dicono anche i più anziani, da queste parti non si erano mai viste e vissute, barche sollevate, centinaia di tetti scoperchiati e per fortuna solo qualche ferito lieve. Insomma, temevamo per la pioggia, invece è stato il vento a segnare questa giornata di allerta in Liguria tra Nervi e la Riviera di Levante. Le raffiche hanno fatto strage di alberi, compreso il pino secolare del Castello Brown di Portofino, un simbolo del borgo. Alcuni tronchi sono finiti sulla ferrovia, treni fermi con i passeggeri bloccati per ore. La linea tirrenica è tuttora interrotta tra Genova, Brignole, Sestri, Levante. La circolazione dovrebbe riprendere domani. A te, Roberta. Grazie, Andrea Ferro, da Genova. Poi più tardi ci colleghiamo con il nostro meteorologo per capire nelle prossime ore come andrà. Intanto parliamo dell'ultimo saluto oggi a Dario Fo, la camera ardente dell'artista nel foyer del piccolo teatro Streller. Per noi c'era la nostra Adriana Fracchi. Adriana, mi pare che nonostante la pioggia le persone, anche comuni, fossero numerose oggi. Sì, sono stati davvero tanti i cittadini che hanno portato e continuano a portare il loro ultimo saluto a Dario Fo, morto ieri a 90 anni. La Camera Ardente infatti è stata aperta stamani al Piccolo Teatro Streller di Milano e lo sarà fino a mezzanotte, poi ancora domani mattina dalle 8.30 alle 11. Un flusso composto ma incessante davvero di persone che ha voluto rendergli omaggio anche appunto sotto la pioggia battente, come dicevi. Il primo ad arrivare, accolto dal figlio dell'artista Jacopo, era stato stamani il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sentiamolo. Certamente una figura controversa, ma questa è Milano e io penso che lui abbia dato più di quello che ha ricevuto. Giustamente stiamo riflettendo in questi giorni, non ci sono grandi segni di omaggio a Milano per Dario Fo, quindi cercheremo di rimediare. Jacopo Fo infatti si era sfogato su Facebook dicendo che il padre è stato spesso duramente criticato e anche censurato, che Milano non gli ha mai dato un teatro, uno spazio dove lavorare e nemmeno lo ha festeggiato quando ha vinto il Nobel per la letteratura nel 1997. Come milanese che ha dato lustro alla città, comunque ora per decisione dell'amministrazione Dario Fo verrà sepolto domani al Famedio, il Pantheon dei cittadini illustri al cimitero monumentale di Milano, vicino all'amatissima moglie Franca Rame. Oggi a rendere omaggio a quello che è stato l'intellettuale a loro più vicino sono arrivati insieme al figlio di Casaleggio anche due degli esponenti più importanti del Movimento 5 Stelle, il deputato Alessandro Di Battista e il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Sentiamo la sua testimonianza. L'Italia perde un capolavoro, un uomo capolavoro. Il ricordo che ho di Dario Fo è quando subito dopo la morte di Gian Roberto Casaleggio convoca una conferenza stampa e sta tutta la mattina a parlare di lui e delle chiacchierate che si facevano. Una persona che ci è stata molto vicina. E domani alle 12 Milano saluterà il suo giullare da Piazza del Duomo con una cerimonia laica. Milano sarà lutto cittadino con le bandiere civiche a mezz'asta. Grazie Adriana Fracchia. Ciao Adriana. Grazie. Bob Dylan disperatamente, più di 24 ore dopo l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura, l'Accademia di Stoccolma non riesce ancora a trovare il cantautore americano. Abbiamo parlato con l'agente, col manager dei suoi tour di concerti, ma non direttamente con lui, ha detto il cancelliere dell'Accademia, e poi ha minimizzato, dice non è la prima volta, anche in epoche moderne, che non si riesce a parlare direttamente con il premiato. Pare che lui ieri al suo concerto a Las Vegas non abbia proprio fatto parola di questo premio e che continui a fare i suoi concerti senza curarsi, insomma, di questo riconoscimento così prestigioso. Il cantautore potrebbe addirittura non ringraziare mai, così ha ipotizzato uno dei suoi amici storici, il cantante Bob Newhart, parlando con il Washington Post. E adesso per chiudere, lo sport: ai mondiali di ciclismo su strada a Doha, il primo titolo iridato dell'Italia è donna, lo regala la 18enne Elsa Balsamo nella prova di linea juniores lunga 74,5 km. La cunese, suggellando un 2016 difficilmente ripetibile per lei, è andata oltre il caldo torrido, regalando all'Italia una soddisfazione immensa. Evviva! E con questo ci lasciamo brevemente, perché ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, e poi continuate a mandare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note, che lì per voi giorno e notte, oppure al numero per messaggio WhatsApp, che è 349-238-6666. Sulle notizie di cui sentite parlare, sul referendum, anche molti continuano a chiedere chiarimenti, poi man mano, quando ci avviciniamo, cercheremo anche di chiarire le posizioni del sì e del no. Danilo dice, per esempio, un dubbio: non bastava mettersi d'accordo per eliminare un tot tra senatori e deputati, piuttosto che scrivere un obbrobrio del genere? Ne parleremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie ve lo ricordate, ve lo raccontate, il riassunto della giornata poco fa, come sempre all'inizio di Effetto Notte. Non perdete soprattutto l'inizio, ma tutta la trasmissione dalle 21 alle 22, l'ascoltano in tutto il mondo. Ogni tanto mi scrivono da Chicago, oppure dall'Australia, oppure anche qualcun altro recentemente dall'Africa. Quindi ditelo a parenti, conoscenti, amici e amori di non perdere Effetto Notte tutte le sere, per avere il ragguaglio, per avere un quadro chiaro della giornata. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per scrivere i vostri messaggi, oppure il numero 349-238-6666. Poi continuerò a leggere anche quelli sul referendum, sui dubbi che avete a proposito di referendum. Mentre Emanuele dalla Sardegna mi fa una domanda molto tecnica sui 140 uomini che dovrebbero essere inviati dall'Italia in Lettonia prossimamente, nei prossimi mesi. Poi lo leggerò quando arriverà il nostro esperto di difesa. Adesso invece tra poco parleremo di pensioni, che mi sembra un argomento assolutamente importante, quanto popolare, diciamo, a tutti noi interessa sapere bene come funzionano le cose. Però prima di tutto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Pensioni sociali dal 1 maggio. Dal 1 maggio arriva l'APE agevolata ai disabili, disoccupati e lavoratori impegnati in attività usuranti, purché con un reddito inferiore ai 1.350 euro lordi. Soldati italiani con la NATO al confine russo nei prossimi mesi, l'ira di Mosca. Il Cremlino dice è una politica distruttiva. Il ministro nostro degli esteri Gentiloni dice non è un'aggressione. E poi il maltempo in mezza Italia, tromba d'aria su Genova, tempeste d'acqua al nord, e avete sentito anche a Roma un albero che è caduto su uno scuolabus con 3 feriti lievi. A Palermo invece tutti in spiaggia. Referendum testa a testa nei sondaggi, c'è l'attesa dei ricorsi, capire qual è l'esito di chi ha fatto ricorso sul testo di questo referendum. E poi l'addio a Milano, di Milano a Dario Fo, i fiori di tanti i giovani e anziani, l'avete appena sentito. E poi Bob Dylan che non commenta il premio Nobel che è stato assegnato per la letteratura, e soprattutto l'Accademia di Stoccolma non lo trova. Ora invece parliamo di chi potrà trovare la propria pensione e in che modo, perché per poter accedere all'APE agevolata, che è l'anticipazione pensionistica, bisognerà avere almeno 30 anni di contributi se disoccupati, 35 se lavoratori attivi, il reddito non dovrà superare i 1.350 euro lordi al mese, e potranno accedere all'APE agevolata disoccupati, disabili e alcune categorie di lavoratori impegnati in attività faticose. Ci sono anche le maestre, i lavoratori gli infermieri, ma ne parliamo tra pochissimo col vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Chicco Padula. Però c'è la CGIL che è critica dopo questo incontro tra governo e sindacati, perché dice il governo si rimangia la parola. Prima aveva detto che dovevano essere 20 anni di contributi per l'APE social o APE agevolata, come la vogliamo chiamare, adesso invece parla di 30 anni. Allora saluto Chicco Padula, buonasera Chicco. Buonasera, ciao. Tra l'altro giorni fa un ascoltatore mi scriveva: ma questi cambiamenti saranno per sempre? L'unica risposta che ho saputo dargli è che per, soprattutto per quanto riguarda le pensioni, il per sempre non esiste. Non esiste, esiste già in genere per la vita, per le pensioni ancora meno. Soprattutto. Quindi, diciamo, senatore, al spiegaci. Al momento saranno delle misure sperimentali che a quanto abbiamo letto nell'accordo che il governo e i sindacati hanno firmato, l'intesa che hanno firmato il 28 settembre, che durerà 2 anni, quindi è una sperimentazione che per ora dura 2 anni. Oggi c'è stato un po' un colpo di scena, perché effettivamente proprio sulla base di quell'accordo del 28 settembre avevamo avuto l'impressione che questa APE sociale, questa APE gratuita, di fatto quindi, insomma, possiamo dirlo una specie di prepensionamento, no? La possibilità di andare via dal lavoro 3 anni e 7 mesi prima di aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, che sarebbe stata concessa a, diciamo, categorie meritevoli di particolare tutela, quindi i disoccupati che non hanno più accesso agli ammortizzatori sociali, i lavoratori disabili oppure impegnati in attività particolarmente faticose. Oggi abbiamo avuto anche alcune indicazioni su quali potrebbero essere queste attività. Tu hai giustamente citato le maestre di scuole di infanzia, ma anche gli infermieri di sala operatoria, i lavoratori dell'edilizia, i macchinisti, gli autisti di mezzi pesanti. Beh, si era pensato che i requisiti fossero, diciamo, avere almeno 20 anni di contributi e che l'APE sarebbe, questo anticipo, insomma questo prepensionamento sarebbe stato gratuito fino a circa 1.550 euro lordi di pensione. In realtà oggi abbiamo appreso che i requisiti sono un pochino più severi, questo vuol dire che probabilmente saranno di meno i futuri pensionandi che avranno diritto ad accedere a questo strumento, perché i contributi diventano 30 per i disoccupati e 36, 35 o 36 secondo alcune agenzie, per invece i lavoratori occupati, impiegati in attività faticose. E il limite di reddito al di sotto del quale, diciamo, questa APE è completamente gratuita è 1.350 euro lordi al mese. Questo però significa che se eventualmente uno ha una pensione, avrebbe diritto a una pensione leggermente più alta, questo 1.350 funzionerebbe come una franchigia e poi avrebbe, diciamo, accesso all'APE che abbiamo definito di mercato, cioè quella libera scelta che uno poi si paga il prestito, la restituzione del prestito in 20 anni. Comunque chiudiamo dicendo questo, Chicco Padula, che per il momento nulla è ancora ufficiale, no? È sempre delle ipotesi, delle contrattazioni. Domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe, diciamo, approvare gran parte di queste misure e poi ricordiamo che comunque da qui a dicembre il Parlamento dovrà a sua volta, diciamo, integrare, correggere e approvare definitivamente tutta questa cosa. Allora tornerai a spiegarci poi quando ci saranno i risultati definitivi. Grazie Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Grazie, ciao Chicco. Ciao. Ora invece siamo al bilancio della politica della settimana, la direzione nazionale del PD essenzialmente all'inizio della settimana e poi sempre più acceso dibattito sul referendum. In realtà questi due temi sono intrinsecamente legati, perché poi protagonista della direzione nazionale del PD è stata la lacerazione interna tra maggioranza e minoranza del partito proprio sulla questione referendum. Il Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD Renzi, nel suo intervento di mezz'ora ha rivendicato i risultati del governo e ha aperto a possibili modifiche dell'Italicum, perché la minoranza gli chiede, dice, vabbè, sul referendum votiamo se nel caso sì, però prima cambi la legge elettorale, l'Italicum, sottolineato Renzi, per cercare l'unità del partito non siamo disponibili a bloccare il paese, quindi, come dire, se riusciamo a trovare un compromesso bene, altrimenti noi andiamo avanti. Saluto intanto Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Buonasera. Cara Barbara, ciao. Per apportare eventuali modifiche all'Italicum, Renzi ha lanciato la creazione di una commissione di parlamentari che si confrontino con parlamentari PD, che si confrontino con gli altri partiti per capire quali potrebbero essere possibili modifiche. Le questioni tuttavia sono, Barbara, qual è la proposta del PD? che ancora non c'è, pare. Gli altri partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, hanno già detto che per il momento non sono intenzionati a fare proposte. E poi quali sono i tempi di modifica dell'Italicum? Perché la minoranza PD vorrebbe che fosse cambiato prima del referendum, con la paura che poi dopo non se ne parli più, mentre Renzi dice lo cambiamo dopo. Beh, diciamo che prima del referendum mi sembra difficile, ci sono molti anni per fare una legge elettorale, difficilmente in un paio di mesi credo che si possa fare una nuova legge elettorale. Comunque, per quanto riguarda lo scontro all'interno del PD, diciamo che questa commissione avrà un senso se riuscirà quantomeno a, come dire, a definire quelle che possono essere le possibili modifiche all'Italicum da parte del Partito Democratico, tutto, minoranza compresa. A quel punto, dopo il referendum, si aprirà il confronto con le altre forze politiche, anche perché le altre forze politiche a loro volta hanno già detto, dal Movimento 5 Stelle alla Lega, Forza Italia, che non ne vogliono sapere di parlare adesso di Italicum, ma prima del voto. Quindi, insomma, inoltre c'è il verdetto della Consulta, che arriverà anche quello dopo il 4 dicembre sull'Italicum. Per i ricorsi che sono stati fatti, sia sull'Italicum, ma anche i ricorsi sul referendum, sul quesito del referendum. Beh, no? Lì, quella è un'altra partita, quella sul referendum, nel senso tante che cose... hanno senso questi ricorsi se vengono, come dire, accolti. No, verificati prima del referendum, perché dopo servirebbe a poco, certo. Quindi se la Corte, tant'è che c'è chi dice che questo potrebbe portare addirittura a un rinvio del referendum, perché si chiede uno spacchettamento del quesito, ovvero un quesito per ogni argomento, per ogni argomento, tema, no? Sì, che è stato toccato dalla riforma. Insomma, diciamo, questo da un punto di vista tecnico, giuridico. Però sul piano politico, invece, come vi dicevo, già è tanto se riusciranno a trovare un accordo interno al PD. Adesso vedremo, non si sono ancora riuniti, questa commissione non si è ancora riunita, comincerà il lavoro la prossima settimana e staremo a vedere. I toni comunque sono pesanti sia all'interno del PD, abbiamo sentito Bersani, abbiamo sentito D'Alema in questi giorni, Renzi stesso con Brunetta, insomma, l'area è molto tesa, questo referendum ha spaccato in due il paese senza che però, Barbara, ancora la gente abbia capito bene di cosa si tratti. Noi lo faremo e chiariremo man mano che ci avviciniamo, altrimenti si chiarisce adesso, poi uno fa il tempo a dimenticarsi finché ci arriviamo. Però ti sottopongo alcuni dubbi di ascoltatori, se vuoi. Per esempio Danilo, che dice: un dubbio, non bastava mettersi d'accordo per eliminare un tot tra senatori e deputati piuttosto che scrivere un obbrobrio del genere. Domenico dice: perché per abolire il bicameralismo perfetto bisogna inventarsi un altro tipo di senato? Basterebbe chiuderlo. Ilaria dice: io non ho ben capito il pasticcio del senato, quali sarebbero le sue competenze? Qualcosa di fumoso relativo ai rapporti con l'Europa? Ah, il meccanismo dell'attribuzione del premio di maggioranza o quel che diavolo è? Poi Daniele dice: a cosa servirà questa nuova casta di senatori se dicono che viene eliminato il bicameralismo perfetto? Come dovremmo chiamarlo adesso? Bicameralismo imperfetto, mezzo bicameralismo o che altro? Ho buttato lì un po' di spunti. Allora, diciamo il bicameralismo perfetto è qualcosa che abbiamo solo noi, cioè non esiste da altre parti, almeno nei paesi occidentali. Renzi dice in Romania, sinceramente non so come funziona in Romania. C'è negli Stati Uniti, ma funziona diversamente. No. Allora non sto dicendo il bicameralismo perfetto, cioè che tutte e due le camere, Camera e Senato fanno la stessa cosa. Questa riforma tende a riprodurre dei modelli che vivono Germania, Francia, in modo diverso, perché non è la stessa cosa, cioè che una delle due camere non è più una camera politica, cioè non dà più la fiducia al governo, ma è una camera rappresentativa delle istanze regionali e quindi chiamata a pronunciarsi laddove ad esempio il governo presenta delle proposte di legge che hanno un impatto diretto a livello locale. Quindi questa è l'idea, diciamo, di massima, per cui un'idea che, questo va sottolineato, cioè di questa roba qui se ne parla da 30 anni, anzi se ne parla già dai tempi della Costituzione, cioè di quando è nata. Anche se, Barbara, alcune cose poi andranno chiarite, per esempio come vengono eletti questi senatori, come saranno scelti questi senatori. Diciamo che anche qui la legge per l'elezione dei senatori non può che essere successiva all'entrata in vigore della riforma costituzionale, non poteva essere, perché è una legge ordinaria, è come le leggi elettorali, quindi non è che per Costituzione tu fai una legge elettorale, quindi la legge elettorale sul Senato inevitabilmente sulle elezioni dei senatori deve arrivare una volta che la riforma costituzionale è approvata, altrimenti non serve a niente fare una legge per una riforma che magari non è approvata. Lì si dice dovrebbero essere rappresentanti, no, si dice così, cioè saranno rappresentanti dei consigli regionali e all'interno dei quali ci dovranno essere comunque sindaci delle realtà regionali. Allora, il punto qual è? La cosa più ovvia, anche immagino per i nostri ascoltatori, sarebbe stato quello di fare un Senato dei governatori e dei sindaci, perché sono espressione del voto popolare. Cioè, invece ci saranno i consiglieri regionali, sindaci e consiglieri regionali. Sì, ci saranno sindaci e consiglieri. Perché è stato fatto questo? Perché, ci chiediamo, Barbara? È perché la politica è compromesso e anche i nostri ascoltatori dovrebbero capirlo, nel senso che non c'è mai una, come dire, una parte che vince totalmente sull'altra. C'è il bicameralismo perfetto, ma non c'è la politica perfetta, vogliamo dire questo. Perché il motivo per cui non è stato fatto questo, cioè un Senato dei governatori e dei sindaci, perché si è detto che non avrebbe rappresentato questo Senato le minoranze. Perché questo? Per esempio in Germania è così, sono i capi dei Länder, cioè sono le maggioranze che governano i Länder che sono nel Senato. No? Che vanno a rappresentare. Quindi faccio un esempio chiaro, no? Sì. Allora noi abbiamo ad esempio il centro-sinistra che governa il Lazio e abbiamo il centro-destra che governa la Lombardia. Non abbiamo per esempio il Movimento 5 Stelle in nessuna regione. E quindi allora, dici non sarebbero rappresentati. Un senato dove senza Movimento 5 Stelle avrebbe qualche sindaco. Ecco, avrebbe qualche sindaco. Allora si è posto un problema di rappresentanza. Diciamo che a mio parere, ma io sono una giurista, non sono una costituzionalista, la scelta non mi soddisfa personalmente, nel senso che si è scelto di rappresentare proporzionalmente i vari partiti per i voti che hanno preso nelle loro regioni, quindi ci saranno tutti. Però a quel punto non saranno più espressione del governo regionale, cioè ci saranno della Lombardia tanto i 5 Stelle che il centro-sinistra e del Lazio ci saranno tanto il centrodestra che i 5 Stelle. Chiarissimo, Barbara, l'unica cosa bisognerà vedere poi chi li eleggerà, se direttamente gli elettori oppure il consiglio regionale, che allora diventa ancora più complesso. Però avremo modo di chiarirci fino al 4 dicembre, Barbara Fiammeri, perché ora dobbiamo purtroppo lasciarci. Ti auguro un buon fine settimana. Anche a voi. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao Barbara. E i vostri messaggi continuano con i vostri dubbi che poi man mano cercheremo di chiarire. 349-238-6666 il numero per WhatsApp, SMS, anche sugli altri temi, e così la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Quindi abbiamo parlato molto di politica, abbiamo parlato di pensioni, il riassunto della giornata all'inizio. Adesso cambiamo tema, parliamo di questa contingente di soldati italiani che dovrebbe tra un po' di mesi schierarsi in Lettonia al confine con la Russia. Ne parleremo tra pochi istanti con un esperto di difesa. Intanto i vostri messaggi che arrivano sui vari argomenti che abbiamo trattato, per esempio dice un ascoltatore, Marco da Varese: ma possibile un reddito di cittadinanza? No, buttare soldi in questo modo, il governo dice, un pasticcione. A proposito delle pensioni, dell'APE, no? L'anticipo pensionistico, i vari criteri eccetera, ma sul reddito di cittadinanza so che è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, però il governo dice che c'è un problema poi di coperture. Dopodiché un altro ascoltatore invece dice, a proposito sempre delle categorie che rientrano in questa APE agevolata, dice: se fare la maestra è considerato un lavoro faticoso, allora questo paese non ha proprio speranza, si merita la bancarotta, perché anche le maestre rientrano in questa categoria. Bisognerebbe chiedere a loro, non so perché lo abbiano considerato, evidentemente lo sarà. Adesso però vi ricordo quali sono tutte le notizie più importanti della giornata e poi cominciamo a discutere un altro tema. Iniziativa della NATO in Lettonia, nei prossimi mesi anche 140 soldati italiani nel al confine con la Russia. Le opposizioni attaccano il governo italiano, Mosca parla di politica distruttiva, Gentiloni assicura non è aggressione. Pensione, arriva l'APE agevolata per disoccupati, disabili e lavoratori impegnati in attività faticose, purché con reddito inferiore a 1.350 euro lordi, con 30 anni di contributi e se disoccupati e 35 se attivi. Critica la CGIL che dice il governo si rimangia la parola. Referendum costituzionale, testa a testa al momento nei sondaggi tra il no e il sì, l'attesa per l'esito dei ricorsi presidenziali americane. Obama avverte è in gioco la democrazia se vince Trump e lancia il coro Hillary. L'America e le armi, a causa di sparatorie accidentali muore un bambino ogni due giorni. E poi per il meteo, maltempo in mezza Italia, tromba d'aria su Genova, tempeste d'acqua al nord, a Roma un albero cade su uno scuolabus causando 3 feriti lievi fra cui una bimba, a Palermo invece tutti in spiaggia. L'ultimo saluto a Dario Fo, milanesi di tutte le età sono accorsi alla camera ardente dell'artista nel foyer del piccolo teatro Streller e poi cercasi Bob Dylan disperatamente a più di 24 ore dopo l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura. L'Accademia di Stoccolma non riesce ancora a trovare il cantautore americano. Oh, e adesso quindi parliamo del contingente italiano di 140 soldati che dovrebbe essere schierato nei prossimi mesi in Lettonia, al confine europeo con la Russia, nell'ambito di una missione NATO. Questo l'ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica della NATO, Stoltenberg. Il ministro Gentiloni, ministro degli esteri, ha detto non è un'aggressione questa decisione, è stata presa mesi fa nell'ambito del contributo all'Alleanza Atlantica, appunto la NATO, nei paesi baltici. Ma sentiamo anche cosa ha detto in proposito la ministra della Difesa Pinotti. Nell'ambito di una solidarietà che c'è nell'alleanza avremo anche una compagnia, quindi un numero ridotto, non è nostra responsabilità, saremo sotto un comando canadese, ma avremo anche una compagnia. Fa parte di quelle misure di rassicurazione che i paesi dell'est hanno richiesto e l'Italia, quindi solidale sul fronte est quando ce n'è bisogno, chiede sempre con attenzione solidarietà sul fronte sud. Finalmente la NATO ha deciso, anche per quello che riguarda gli impegni diretti nelle missioni, di avere una visione a 360 gradi, quindi una missione di sicurezza navale presente nel Mediterraneo sarà una missione NATO che risponde a delle esigenze che ha posto l'Italia. Saluto Gianandrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa e collaboratore del Sole 24 Ore. Gianandrea, allora le opposizioni parlano di atto di guerra sconsiderato. Come dobbiamo considerarlo? Anche perché un ascoltatore faceva una domanda un po' tecnica, evidentemente si occupa di queste cose. Vediamo se lo ritrovo. Dice... Mi chiedeva se c'è un contingente speciale, che adesso non ritrovo, magari mentre tu parli lo cerco ancora questo messaggio. Di forze speciali, forse. Sì, di forze speciali. Ma no, in realtà sono 4 battaglioni di fanteria che la NATO, composti da contingenti di diversi paesi, l'Italia dà un contributo simbolico molto maggiore, è il contributo britannico, ad esempio, non è un caso perché... Diciamo, in questa corsa a ripristinare un contesto da guerra fredda spingono molto gli angloamericani, che sono poi, vogliamo dire così, i maggiori azionisti della NATO. E ovviamente uno dei motivi per cui riescono a farlo è anche il fatto che i paesi dell'est, quindi i nuovi partner della NATO, nuovi relativamente, come i paesi baltici, la Polonia, la Romania, la Bulgaria, di fronte alla nuova tensione scoppiata dopo i disordini e il caos che da 2 anni riscontriamo in Ucraina e poi anche le tensioni in Siria, in questo nuovo clima, i paesi dell'est più vicini alla Russia, che tradizionalmente nella loro storia hanno avuto a che fare con i russi sempre in situazioni, spesso in situazioni difficili, insomma paesi che hanno avuto invasioni dalla Russia e dalla Germania, insomma hanno una tradizionale paura di Mosca quando questa Mosca mostra i muscoli, per usare un gioco di parole, e quindi insomma su questa paura la NATO risponde mandando delle truppe che resteranno dentro paesi NATO, le repubbliche baltiche, dove qualcuno parla di un rischio di invasione russa che a me sembra assolutamente ridicolo. Insomma, la Russia gioca in difesa, ha subito la sottrazione dell'Ucraina dalla sua area di influenza, stanno cercando di fargli perdere la base in Siria dove la Russia ha una base navale, e la Russia gioca, anche se in maniera spregiudicata, una battaglia, vogliamo dire, difensiva, però lo fa con gli strumenti con cui Putin ha familiarità e che quindi incutono timore. L'Italia invece ha sempre avuto una posizione, come altri paesi dell'Europa occidentale, molto cauta di amicizia verso la Russia, anzi l'Italia propone di togliere le sanzioni economiche alla Russia, lo fa da tempo. e quindi ha espresso una solidarietà ai baltici, come ha detto bene la Pinotti, sperando di avere in cambio un appoggio dalla NATO sul fronte sud, dove fra Libia e i migrati siamo molto esposti e spesso siamo soli. E giustamente Patrizio scrive: si parla di alleati solo in questi casi, ma nei momenti di difficoltà rimaniamo soli nel Mediterraneo. Praticamente quello che hai detto tu, insomma, vediamo se ci sarà effettivamente questo scambio di solidarietà e di sostegno. Grazie Gianandrea Gaiani. Ciao Gianandrea. Grazie. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo adesso in pochi secondi, con l'iniziativa della NATO in Lettonia di cui abbiamo appena parlato, nei prossimi mesi anche 140 soldati italiani al confine con la Russia, le opposizioni attaccano il governo italiano, Mosca parla di politica distruttiva, Gentiloni assicura non è aggressione. Pensione arriva all'APE agevolata per disoccupati, disabili e lavoratori impegnati in attività faticose, purché con reddito inferiore a 1.350 euro lordi, con 30 anni di contributi se disoccupati e 35 se attivi. Critica invece la CGIL che dice il governo in questo modo si rimangia la parola. Referendum costituzionale testa a testa al momento nei sondaggi tra il sì e il no, e c'è l'attesa per l'esito dei ricorsi. E poi meteo, maltempo in mezza Italia, tromba d'aria su Genova, tempeste d'acqua al nord, a Roma un albero è caduto su una scuolabus causando 3 feriti lievi, e Palermo tutti invece in spiaggia perché l'Italia, come si dice, è divisa a metà. L'ultimo saluto a Dario Fo, milanesi tutte le età sono accorsi alla camera ardente dell'artista nel foyer del piccolo teatro Streller, mentre per quanto riguarda il premio Nobel per la letteratura 2016 Bob Dylan, ancora l'Accademia di Stoccolma, ma a distanza di più di 24 ore non riesce a trovarlo. Europa 24 notte. Parliamo di un muro europeo contro i fitofarmaci. Dal 2002 è controllato dall'ESA e tra i paesi europei l'Italia è il paese da questo punto di vista più virtuoso. L'Europa ha il sistema di controllo sui fitofarmaci per l'agricoltura tra i più restrittivi al mondo, come confermano i monitoraggi sui residui di pesticidi negli alimenti che dal 2002 sono affidati all'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Domenica Uteri, team leader del gruppo Ecotossicologia dei pesticidi. L'EFSA ha un ruolo nel raccogliere e analizzare i dati relativi ai controlli sulle derrate alimentari che vengono fatti dai diversi stati membri. I dati che vengono inviati all'EFSA si riferiscono sia ai cibi provenienti da paesi europei sia ai cibi provenienti dai paesi extraeuropei. Parliamo di complessivamente di circa 700 pesticidi analizzati che comprendono 500 tipologie di cibo di origine animale e vegetale. Rispetto alle non conformità dei prodotti provenienti dai paesi extraeuropei, che parliamo di un 3,4% dei campioni testati in base alla relazione del 2013, contro lo 0,7% dei prodotti analizzati in Europa. Tra i paesi europei, l'Italia è quella con la minor percentuale di non conformità rilevate negli alimenti, che è dello 0,3%, dato che rispecchia una maggiore attenzione dei produttori italiani per le norme europee, ma che è anche dovuto a un rigido sistema di controlli sui prodotti importati, come spiega Elvira Cecere, responsabile per la regolamentazione dei prodotti fitosanitari al Ministero della Salute. Noi abbiamo un sistema di controlli all'importazione effettuato dagli uffici periferici del Ministero della Salute, che si chiamano PIF ed USMAF, che costituiscono una barriera sia per l'Italia ma anche per il resto d'Europa, effettuando controlli all'importazione, cioè prima che il prodotto dal paese terzo entri in Italia, le non conformità vengono segnalate all'interno del sistema di allerta nazionale e comunitario, il provvedimento che viene preso è il respingimento della merce. Se noi leggiamo il dato del 2014 dei controlli all'importazione dei prodotti vegetali, i pesticidi hanno costituito la seconda causa di respingimento in Italia, il che vuol dire che quindi il controllo è stato fatto, che il prodotto da paesi terzi, anche per esistenza di normative diverse, meno conservative di quelle europee, costituisce un motivo di respingimento, e quindi questo controllo noi lo riteniamo una barriera efficace. L'Italia è il primo paese dell'Unione per numero di segnalazioni inviate alla Commissione europea per irregolarità negli alimenti, con un totale di 511 notifiche nell'ultimo anno, pari al 17% del totale. Il maggior numero di violazioni si riscontra su frutta secca e snack, seguiti dai prodotti della pesca. Terzo posto per frutta e vegetali, soprattutto quelli provenienti da Turchia, Egitto e Cina. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. in collaborazione con Euronet Plus. Tra poco parleremo di previsioni meteorologiche. Intanto vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero per gli SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Prima qualche ascoltatore diceva: ma se consideriamo le maestre per quanto riguarda l'anticipo pensionistico agevolato nelle categorie appunto che fanno un lavoro faticoso, non c'è più speranza. Allora ha risposto un'ascoltatrice, dice: signora Giordano, chiamatemi signora, mi viene l'uveite, dice: le posso assicurare che fare la maestra, avere a che fare con i genitori e alunni, soprattutto nella scuola primaria, mi creda, è qualcosa di devastante. E quindi questa è una testimonianza diretta. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, su questo sarà il governo e i sindacati a decidere. Poi dice per esempio Anna da Venezia: bene cancellare il Senato, ma perché alzare qui a 150.000 le firme per il referendum? Anche questa forse è una cosa che poi chiariremo nei prossimi giorni. Mentre un altro ascoltatore, avevo citato un ascoltatore che nei giorni scorsi aveva chiesto: ma questa riforma delle pensioni è per sempre? Io ho detto che nulla è per sempre, soprattutto nel caso delle pensioni. Dice: sono io che ho scritto per sempre, intendevo se non cambia la legge potrà andarci chiunque. Anche qui rispondo che è tutto ancora in divenire, ne parlavamo prima col vice direttore del Sole 24 Ore, sono ancora cose da decidere, non c'è nulla di definitivo. E poi chissà, non so che età abbia l'ascoltatore o l'ascoltatrice, c'è tempo poi per continuare a cambiare. E qualcun altro ancora diceva: ci saranno degli aumenti anche per chi percepisce solo la pensione sociale? Questo lo capiremo. Intanto c'è il nostro Paolo Corazzoni di Trevi Meteo. Caro Paolo. Roberta, buonasera, eccomi. Per raccontarci con la sua voce solare, perché lui è portatore sano di sole, se il sole tornerà, è vero? Torna, prima o poi torna, però insomma oggi giornata difficile, abbiamo visto soprattutto in Liguria. Al momento le piogge più forti stanno interessando l'Emilia Romagna e il Triveneto, i temporali piuttosto intensi stanno raggiungendo la bassa Toscana e il Lazio. Però abbiamo tutto sommato buone notizie, perché domani al nord il tempo migliorerà in maniera sensibile, già dal mattino al nord-ovest e nel pomeriggio al nord-est. Nell'Italia centrale avremo sì ancora degli acquazzoni, ma in forma meno diffusa, meno intensa anche, acquazzoni che poi raggiungeranno sì il basso Tirreno, ma anche lì non ci attendiamo fenomeni intensi. E soprattutto domenica torna il sole in tutta Italia, domenica sarà una giornata piacevole anche come temperature. Quindi l'abbiamo scampata per domenica, non c'è nessun peggioramento da nessuna parte. No, esatto, Paolo. Tra l'altro aggiungo anche che al momento sta creando qualche problema anche il vento al sud, che paradossalmente ha portato oggi le temperature a 30 gradi e oltre in Sicilia. Domani ancora un po' di vento nelle regioni meridionali, ma più attenuato, e domenica anche lui si calmerà definitivamente. E festeggiamo il sole di domenica. Grazie Paolo Corazzoni di Trevi Meteo, buon tempo a te, caro buon Paolo. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, noi ci riaggiorniamo alle 22.